Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Da alcune settimane circola una notizia secondo la quale l'ingegnere Andrea Rossi, inventore, avrebbe messo a punto una macchina basata sugli studi di Sergio Focardi, fisico e professore emerito dell'Università di Bologna, che produrrebbe energia grazie a una reazione nucleare non meglio identificata. Che è tecnicamente sbagliato chiamare fusione fredda, ma che nasce proprio da quel filone di ricerca. D'altra parte annunci ce ne sono stati tanti in questi anni, ma in realtà non si era mai visto niente del genere. Tanto che lo scetticismo con cui è stato accolto l'ennesimo annuncio di fusione fredda comincia a vacillare. La notizia di oggi è che Arno Essen e Sven Kullander, due fisici svedesi, hanno testato il 29 marzo scorso questa macchina. Oggi è uscito il report di questo test e si parla di reazioni nucleari. Bisogna ricordare che Arno Essen è stato per 3 anni presidente della Skeptic Society svedese. La Skeptic Society è la più grande società internazionale di lotta contro le frodi scientifiche. Noi stasera non cercheremo di spiegare un fenomeno che non trova posto in alcun libro di fisica, sentiremo invece la voce di Giuseppe Levi, ricercatore dell'Università di Bologna, che ha testato davanti a un pubblico di colleghi universitari il macchinario e che ho incontrato lunedì a Bologna. Ascoltate. Che rapporto ha lei col professor Focardi e con l'ingegner Rossi? Con l'ingegner Rossi nessun rapporto diretto, a parte questo rapporto di lavoro, nel senso che è stato Rossi poi a portarci questo oggetto e a chiederci di fare le dovute verifiche. Col professor Focardi, molto tempo fa, facemmo un esperimento insieme, una misura più raffinata di quelle che erano state fatte in precedenza della costante di gravitazione universale G grande. Quindi col professor Focardi è un professore noto, un professore emerito dell'Università di Bologna e c'era un rapporto di lavoro fra colleghi, diciamo, sinceramente lo stimo molto. Allora, come si presenta esternamente questo oggetto che voi avete testato, perché non sappiamo che cosa c'è all'interno? Un tubo isolato con un'uscita verso l'alto. Il motivo di mettere l'uscita verso l'alto è perché l'oggetto possa essere riempito d'acqua. Se io lo riempio dal basso e prendo l'acqua dall'alto, come per i termosifoni, sono sicuro di averlo riempito tutto, perché se manca l'acqua di raffreddamento, chiaramente uno potrebbe avere qualche problemino, insomma, diciamo. Le dimensioni di questo oggetto? Dimensioni piuttosto contenute. Nella versione dimostrata durante la prova del 14 gennaio l'abbiamo visto esterioramente come un tubo di circa 20 cm di diametro e una lunghezza di circa mezzo metro, più o meno. Recentemente abbiamo testato una versione più piccola di questo reattore e abbiamo potuto vedere l'interno sotto l'isolamento ed è un tubo di circa 5 cm di diametro. Voi che cosa avete misurato? Abbiamo misurato una produzione di calore. Come si fa? Beh, si scalda l'acqua. Sia nella prova di dicembre, del 14 gennaio, che nella prova fatta la settimana scorsa abbiamo vaporizzato l'acqua. Misurando il volume di acqua che scorre nell'oggetto e misurando le temperature, si può fare i conti molto facilmente di quanto calore venga prodotto, quanta energia venga prodotta da questo oggetto. E voi avete misurato con precisione anche quanta energia immettevate nell'oggetto per farlo funzionare. Ovviamente questo era uno dei parametri fondamentali, perché è chiaro che se io misuro 4 kW di produzione, ma ne sto mettendo 5, faccio per dire, è chiaro che quell'oggetto non avrebbe potuto funzionare. In tutte le prove l'oggetto ha dimostrato di produrre più energia di quella che noi stavamo immettendo come energia elettrica. E più o meno i numeri quali sono? Andando a memoria, i numeri erano come picco di energia immessa alla partenza, avevamo intorno a 1 kW con 10 kW prodotti, e mentre nell'ultima prova l'energia massima, la potenza massima introdotta era circa 300 watt per circa un 4,5 kW prodotto. Quindi diciamo un fattore 10 circa di amplificazione, se vogliamo usare questo termine. Anche di più, perché poi dopo la partenza l'energia immessa può essere ridotta e quindi si arrivava intorno ai 300 watt nel caso del reattore di più alta potenza e l'abbiamo ridotta a circa 80 watt nel caso del reattore più piccolo. Io le chiedo, abbiamo quindi un tubo di 30-40 cm di lunghezza e un diametro di 5 cm e ha prodotto questa potenza anche per un tempo abbastanza significativo, vero? Allora, durante le prime due prove i tempi erano molto ridotti. Comunque le conclusioni alla prova non cambiavano, perché questo è un parametro che influisce non sulla potenza prodotta ma sull'energia totale. Comunque erano entrambe prove molto corte, minore di un'ora. Sia la prova tecnica che si è svolta dopo invece è stata di circa 18 ore di funzionamento, e la prova che abbiamo fatto la scorsa settimana è stata di circa un 6 ore di funzionamento. Quindi sono già tempi un pochino più lunghi e un po' più significativi. Ormai la prova che l'oggetto produca energia c'è. Per fare una misura precisa abbiamo bisogno di tempi più lunghi. Ecco, quello che, su cui vorrei focalizzarmi è questo. C'è modo di racchiudere dentro un tubo di quelle dimensioni una capacità di produrre altrettanta energia con dei metodi convenzionali e conosciuti? Secondo me no. E che io abbia... Guardi, se è una chimica, quello che ci dicevamo fra noi è una chimica nuova. Secondo me non è una reazione chimica, da quello che abbiamo potuto vedere. Guarda, anche lei può tirare giù da Wikipedia, si chiamano tabelle di densità gravimetrica dell'energia, e lei vede lì tutti i materiali con tabelle di densità di energia in base al peso del materiale. Cominciamo a essere fuori dal noto. Per dare una prova definitiva di quelle dove uno ci mette una croce sopra, facciamo una prova con 10 volte più la lunghezza necessaria, e a questo punto saremo assolutamente certi che non sia chimica. Ci sono altri, tra l'altro, ricercatori, suoi colleghi, che hanno assistito, hanno visto questo oggetto in funzione e la pensano come lei? Sì, ce ne sono stati altri, a breve dovrebbero uscire il loro report. Tra l'altro, la cosa che mi ha divertito è che loro erano la prima volta che vedevano questo oggetto. Uno di questi era anche il capo della Skeptic Society svedese, e le loro conclusioni erano assolutamente identiche a quelle che ho tratto io. Quindi possiamo dire di essere davanti ad un fenomeno, ad una produzione di energia che non è riconducibile a delle forme note. Che cosa possiamo dire? Se non è qualcosa di noto, che cos'è? Una delle ipotesi che possa essere una reazione, quelle chiamate low energy nuclear reaction. È una delle ipotesi. Dunque, una delle, diciamo, degli elementi che vengono criticati, andando a vedere anche su internet e sugli articoli che sono usciti, è la mancanza di prodotti cosiddetti di fusione. Cioè ci si aspetterebbe da una macchina nella quale avviene un fenomeno di fusione o comunque di reazione nucleare un'emissione di particelle. In particolare sarebbero due raggi gamma in fase, in controfase, cioè uno opposto all'altro. Voi l'avete misurato? E se no, le chiedo se è un argomento decisivo a questo punto il fatto che non lo abbiate misurato. È un argomento che va a negare un certo tipo di modello, ma soltanto quel tipo di modello, non il fatto che l'energia venga prodotta. Bene, torniamo in studio e diamo il benvenuto a Stefano Bagnasco, fisico dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che per il CICAP sta seguendo questa vicenda. Buonasera Bagnasco, benvenuto. Buonasera, grazie. Senta, allora, come si può commentare questa situazione? Si può semplicemente liquidare come uno dei tanti casi di fusione fredda? Ma è veramente molto interessante questa cosa, perché ci sono secondo me due cose particolari. La cosa che lo differenzia dai casi classici della fusione fredda è che Rossi ha alzato molto la posta. Non sta trovando un piccolo eccesso di energia, non sta trovando una piccola emissione di radiazione, ma un fenomeno macroscopico su cui è veramente difficile sbagliarsi. E la cosa che lo differenzia proprio dagli imbroglioni più comuni è questa apparentemente volontà di mettere alla prova onestamente il suo apparato, cosa che stanno facendo i fisici di Bologna. In cui siamo davanti a degli risultati sperimentali che apparentemente dicono che questo oggetto funziona. È chiaro che ci sono molte stranezze ancora. In parte sono dovute alla segretezza che copre il cuore del funzionamento di questo dispositivo. E questo si giustificherebbe con una questione pura di segretezza industriale, insomma. Sì, sì, certo. Stando a quello che dicono. La ragione è quella, ma non toglie che insomma non avevo potuto guardare certo dentro questo affare. L'altra cosa curiosa è che effettivamente non si vedono tutte le tracce di processi che potrebbero noti, che potrebbero spiegare questo fenomeno. Quindi ci troveremo davanti a una cosa che non si capisce come funziona. Senta, ma se fosse un imbroglio, per parlarci chiaro, come dire, sarebbe un imbroglio un po' complicato o sbaglio? È difficile immaginarsi un modo per imbrogliare in queste circostanze. La cosa che manca, secondo me, ancora è una prova in campo neutro. Finora tutte le prove sono state fatte nelle officine, nel laboratorio, alle condizioni dettate dall'inventore, quindi con molte limitazioni su cosa si poteva fare. Forse la cosa che potrebbe convincere tutti è una prova fatta dai fisici all'università alle loro condizioni. Certo è che se si tratta di un trucco, potrebbe invece della fusione fredda brevettare il trucco, ecco, perché è veramente curioso. Grazie Bagnasco, noi ci fermiamo qui. Domani la voce del professor Foccardi. Buona serata.